11:27 minuti primi, martedì 1° di aprile 2014, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Come annunciato, adesso era il momento, è il momento della cronaca romana. Ritorniamo su alcuni temi più che della cronaca di oggi, in realtà della cronaca di ieri, anche se poi qualcosa si ritrova anche questa mattina. Anzitutto raccontiamo questa sigla iniziale, per i cinefili l'avranno già ampiamente riconosciuta. Sì, sì. Sì, è da un film un po' datato, ma insomma. Una pietra miliare. Una pietra miliare, e mo' adesso il titolo mi ha messo. I guerrieri della notte. I guerrieri della notte, sì, perché proviamo a ragionare intorno a questa curiosa situazione che si ridetermina ogni paio di settimane. È ciclica. In questo caso siamo arrivati proprio a spararle con i cannoni. Stiamo parlando proprio di un livello veramente esagerato in termini di cronaca, anche se le parti più esagerate sono limitate a alcune testate minori. Parliamo di Trastevere, parliamo dell'allarme movida addirittura con i dettagli di una nuova tecnica di, come la potremmo chiamare? Adesso c'ha un nome, in assalto. Effetti. Sì, queste pratiche di assalto di gruppi di persone che stendono altre persone durante la notte con un cazzotto deflagrante, per puro gusto sadico, sostanzialmente. Questo quartiere è in mano sostanzialmente a queste orde di stupratori che lo devastano. Questo è un po' il quadro. Una moda importata dall'America. La moda del cazzotto è importata dall'America. Poi ieri si segnalavano anche questi roghi di ciclomotori e via dicendo. Al centro le trasformazioni, naturalmente, come sempre, della movida, ma di questi quartieri. Ne abbiamo parlato per San Lorenzo, il Pigneto, ne abbiamo parlato anche un po' per Trastevere. Proviamo più tardi anche a collegarci con una realtà che a Trastevere c'è, con dei compagni che ci lavorano sopra, e ne parleremo magari più diffusamente. Adesso siamo un po' sulla stampa. La notizia clamorosa, scusate, era ieri su un giornale, insomma, un piccolo giornale, un Free Press, che peraltro però è distribuito in parecchie centinaia di migliaia di copie in tutta la città, e ha comunque una sua capacità di informare e influenzare una parte importante dell'opinione pubblica. La notizia era: arriva l'esercito a Trastevere, è tutto pronto. E noi ci è venuto in mente, sì, che ci è venuto in mente, pensando ai Marù, chi fa il pescatore, chi fa il verme, insomma, no, perché voglio dire, sono questioni serie. L'idea di mettere l'esercito a controllare una zona diciamo, chiamiamola così in questi termini un po' curiosi, movida, è un parto di una mente, diciamo, come al solito, problematica. Perché è evidente che i corpi militari formati che attualmente poi sono sostanzialmente militari a riposo delle missioni internazionali, armati di fucili d'assalto e pistole da guerra, in mezzo a moltitudini di giovani che stanno lì poi soprattutto per divertirsi, è un'idea balzana. È balzana l'idea che si possa controllare militarmente attraverso le forze dell'ordine, siano essi carabinieri, poliziotti, guardie di finanza e vigili. Immaginate l'esercito. Ieri leggo il Free Press di Gaetano Caltagirone e del Messaggero, titolava proprio questa notizia: arriva l'esercito a Trastevere. Oggi, diversamente, forse un po' anche colpiti dall'esagerazione dello scritto, scrivono: movida, c'è l'ok all'esercito. L'avrebbe dato il prefetto di Roma. Movida, c'è l'ok all'esercito, i 150 nuovi uomini arriveranno a maggio. Nel frattempo dirottate le prime squadre. anche questo linguaggio, dirottate le prime squadre, qui ritorno ai dirottamenti, pirati, marò, insomma, confusione. Scrive Franco Pasqualetti: l'accordo sarà formalizzato in occasione del rinnovo del patto per Roma Sicura. A metà maggio, per fronteggiare l'emergenza Movida, a Roma saranno inviati 150 militari dell'esercito. Tipo la terra dei fuochi, no? Cioè, presente? Perché voglio dire, tu bruci i motorini, inquini, grosso modo. Una promessa fatta dal governo al Campidoglio, e qui sulle promesse fatte dal governo al Campidoglio stenderei un velo pietoso. Pietroso. No, cioè, visto quello che sta succedendo sul bilancio del Comune di Roma, appunto la segnalazione del Comitato all'Ordine è arrivata nel weekend, dopo, all'indomani dell'ennesimo weekend di follia nelle zone del divertimento notturno romano. Trastevere, Pigneto, San Lorenzo, Ostiense, Testaccio, Ponte Milvio, Campo dei Fiori, sono troppe zone per 150 militari, eh? Non ci fai poco, nel senso che non si capisce bene logisticamente come li mettono. E vabbè, però questo, insomma, saremo tolleranti, useranno tecniche imparate in Afghanistan. Beh, speriamo di no. Beh, insomma, nella disposizione logistica, io non dico da un punto di vista della... Sì, ma sei parti dalla logistica e poi è facile finire... Noi però ci dobbiamo interrompere, mi sa. Sì. Abbiamo cominciato questo viaggio attraverso Trastevere, però c'è una notizia importante che noi... aspettate e così ci abbiamo anche... Fra un minuto andiamo in diretta. Va bene, allora continuiamo, fra un minuto verremo interrotti per... Credo una buona notizia. Sì, una buona notizia. Per fortuna. Va bene, dicevamo, leggevamo ancora dall'articolo, ma non si dovrà attendere maggio per vedere le prime camionette mimetiche nei luoghi più caldi della città. Secondo quanto deciso in prefettura, i primi uomini saranno dirottati dai servizi di pattugliamento e di scorta nelle zone della Movida già dal prossimo fine settimana. Stanno partendo adesso, perché poi i militari per muoversi dalle caserme ci mettono un po'. Secondo me dobbiamo trovare un pezzo dei colonnelli, il golpe, quello con Tognazzi, perché noi stiamo scherzando, la questione è seria come al solito, però all'italiana è talmente tutto così improbabile che ti vengono in mente proprio delle cose ridicole. Allora, i primi uomini saranno dirottati dai servizi di pattugliamento e di scorta nella zona della Movida nel prossimo fine settimana. Si tratta di un numero ridotto di personale, è bene chiarirlo subito. Non si tratta di un'invasione tipo, insomma, operazioni Desert Storm, non è che ci sono 100.000 militari. Ma sufficiente per andare ad affiancare le forze dell'ordine nel controllo del territorio. Ma quella dell'esercito non sarà la sola mossa di contrasto a episodi di teppismo e di microcriminalità nelle aree di divertimento by night. Il Campidoglio è pronto a varare coma, e qui c'è un refuso in leggo che effettivamente è curato non proprio benissimo, coma aveva fatto in precedenza Gianni Alimanno, che però vicino a Gianni Alimanno coma ci sta bene assolutamente. Allora ci interrompiamo perché siamo in diretta con Tivoli. Pronto, eccoci, buongiorno, ecco. A tutti e tutte. Allora, dicevamo che stavamo per dare una buona notizia e confermaci questa buona notizia, ecco. Sì, magari se diciamo su cosa, perché sì. Tivoli è importante, però... Ci stiamo riferendo ovviamente al processo per quanto riguardava gli imbrattamenti sul mausoleo di Graziani in quel di Affile. Questa mattina c'era il processo al Tribunale di Tivoli, che è terminato con abbastanza anticipo rispetto a quello che avevamo immaginato. E insomma, com'è andata? È terminata con un'assoluzione, perché il giudice ha ritenuto che il fatto non sussiste e ha accolto soltanto la documentazione scritta presentata dalla difesa e niente, si è chiusa così, in breve, con un'assoluzione. Beh, insomma, quindi diciamo possiamo essere contenti. Le richieste che erano state fatte in un primo momento erano abbastanza pesanti nei vostri confronti, insomma c'era stata anche abbastanza preoccupazione, insomma ne abbiamo parlato anche con te la scorsa settimana, ecco. Tutto sommato esatto. Ma diciamo c'è stata una buona argomentazione da parte dell'avvocato della difesa, il giudice è stato sensibile, e per fortuna, almeno così crediamo, poi aspettiamo le motivazioni scritte che arriveranno entro 15 giorni, però pensiamo che sia stato, si sia reso conto che forse si stava svolgendo il processo sbagliato, non ai danni del revisionista Ercole Liri, ma ai danni di chi tiene alti i valori della resistenza. Benissimo, senti, e allora niente, noi ti ringraziamo, ti festeggiamo, diciamo, via etere, e anche noi immaginiamo che adesso sarà un... sento. Sì, adesso dovresti sentirci un po' meglio. Pronto? Ok, ecco. Niente, ti lasciamo adesso un giusto momento di relax, visto che le ultime settimane sono state un pochino tese, un pochino piene di cose da fare, però insomma alla fine un po' con la mobilitazione, un po' con la solidarietà, un po' ci si è resi conto dell'assurdità di tutto quanto l'impianto, ecco, per una volta usciamo soddisfatti e sereni, per cui ti... Sì, anche perché questa mattina la cosa era partita abbastanza male, il capo della procura aveva fatto un ordine di tenere l'udienza a porte chiuse, poi il nostro avvocato ha contestato questa decisione e c'è stata una buona parte dei compagni e delle compagne che sono entrati a sostenerci. Benissimo, quindi insomma è stata una cosa collettiva, come dovrebbe sempre essere in questi casi. Esatto. Va bene, senti, buon brindisi, buona libertà e diciamo ci sentiamo con più calma e più serenità per tutte le tante altre cose che si faranno da quelle parti, con un grosso peso di meno sullo stomaco, diciamo. Va bene? Va bene, grazie, buon proseguimento. Perfetto, anche a te, un abbraccio, ciao. Beh, che posso dire, insomma, solleciti, perché anche un compagno della, credo, comunità etiope, che ci ha anche seguito questa cosa, ci ha appena ritelefonato chiedendoci di dare la bella notizia, perché era in diretta praticamente, adesso perché... però ricostruiamola un po' per i nostri ascoltatori che ci hanno seguito sicuramente, ma chi occasionalmente all'ascolto di Onda Rossa magari sente solo questa allegria, che poi non c'è mai propria, perché purtroppo i processi non vanno quasi mai in questa maniera. Sinteticamente, il comune di Affile, per elezione in qualche maniera, per una sorta di sua connaturata vicinanza al fascismo, alla memoria di Graziani direttamente, non so se per una questione di nascita o per una questione... In realtà no, perché lui non nasce a File, ma nasce, mi pare, nel paese vicino, insomma. Vabbè, però sostanzialmente va a realizzare questa sorta di sacrario di commemorazione di questo personaggio che nella storia italiana è stato sicuramente un personaggio almeno conteso e contestato, per così dire, per usare un eufemismo. Mettiamola così. Fu protagonista forse delle cose più orrende, al vertice poi, non ai bassi livelli, realizzati dal colonialismo italiano. Non era un mero esecutore. Non era neanche un mero esecutore. Parliamo di gas, parliamo di stragi, parliamo proprio delle cose più pessime da questo punto di vista. Parliamo anche del suo essere il capo, se non vado errato, dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Sì, diciamo, non è uno di quelli che poi l'8 settembre... No, Augusto Graziani tenta di ricostruire, se non dico stupidaggini, se la storia non mi tradisce proprio in questo momento, mentre Badoglio da una parte... Dice sì, io fascista, ma quando mai stato? Graziani si dà la ricostruzione di quella che sarà appunto un esercito che non starà in piedi, cioè quello della Repubblica Sociale Italiana, ma che in compenso farà nella guerra civile italiana, o comunque nella storia della Repubblica di Salò, tanti morti, tanti lutti, tante tragedie. Insomma, veramente un personaggio che chi ne più ne ha più ne mette. Che fanno? Gli vanno a fare un sacrario sostanzialmente. No, peraltro è nella lista dei criminali di guerra dell'ONU, cioè neanche 16. C'è anche una qual certa... E di fronte alla contestazione di questa scelta, appunto, avviene il fatto della realizzazione di alcune scritte di contestazione sopra l'edificio, se non vado errato. Peraltro anche scritte che restavano nella civiltà, ecco, neanche a dire che... Tipo Graziani Pupazzo, no? Sì, insomma, non erano neanche cose, diciamo, particolarmente truculente. Non che questo abbia un senso, però siccome per qualcuno poi ce lo può avere. Comunque, da queste scritte poi è nato tutto un procedimento giudiziario molto lungo, che è durato 2 anni e passa, in cui si contestava il grave reato di aver imbrattato sostanzialmente un luogo monumentale, soggetto a tutela per la sua importanza, appunto, nella coscienza civile del paese. Eh sì, c'era una lista di accuse, più, diciamo, la stessa cosa fatta su un vagone della metro. Forse se ti beccano ti fanno la multa. Ti va meglio. Comunque, chiudiamo questa parentesi? Sì. Chiudiamo questa parentesi. Con allegria. No, con allegria, sì. O comunque con la soddisfazione almeno di aver costruito le condizioni per cui ci si rendesse conto dell'enormità di quello che si stava facendo. Torniamo alla movida, all'ok dell'esercito. Sono partiti, adesso hanno fatto 6-7 passi, parla. Secondo me. E beh, perché purtroppo l'esercito italiano poi ha memoria dei suoi passati. Tu poi se vai nelle caserme dell'esercito italiano, anche quello nuovo, essendo alcune sempre le stesse, c'è poi tutte le battaglie, c'è tutti gli ufficiali. Beh, tutte un mesetto fa abbiamo ricordato come l'attuale neoministro della difesa, insieme a tutto i generali di Stato Maggiore, hanno festeggiato l'aviatore centenario. E gloria di guerra, eccetera eccetera, che si è fatto fotografare con tutte le sue belle medagliette, fra cui anche un paio del Terzo Reich, perché questo prima ha partecipato alla guerra civile, poi alla battaglia d'Inghilterra, alla guerra civile spagnola con gli italiani, poi battaglia d'Inghilterra con la Luftwaffe, e poi adesso è arrivato a 100 anni e tutti a dire tanti auguri, e lui c'aveva le sue medagliette, fra cui insomma, sarà stato sicuramente un ottimo pilota, ecco, quello senza dubbio, sì, sicuramente. Io sfortunatamente ho fatto il militare nei Granatieri di Sardegna, per poco peraltro, non per un lungo periodo, però mi ricordo che mi hanno allontanato prima, a un certo punto si sono accorti che non ero della pasta giusta, pochi mesi, però mi ricordo che durante il CAR, in quel di Orvieto, nei muri di questa caserma storica, che era appunto il terzo battaglione Granatieri Guardie, pure il nome insomma non è che fosse un granché, no. Che però era un CAR, però era appunto una caserma dei Granatieri da sempre, c'erano questi murales che commemoravano le battaglie in cui i Granatieri si erano distinti, e si erano distinti in Grecia, si erano distinti, poi i Granatieri in particolar modo si sono distinti per efferatezze durante la Seconda Guerra Mondiale, insomma, per dire che quella è un po', vabbè, insomma, torniamo all'esercito, quello che sta arrivando a Trastevere. E io penso che su questo c'è anche una situazione complicata, perché il sacco di Roma, quello degli Anzichenecchi, venivano da fuori e da Trastevere entravano a Roma. Questi da dove vengono? Vengono da dentro e attraversano Ponte Sisto e sbucano. Perché no, Ponte Sisto va? Sì, va a Piazza Trilussa. Ponte Sisto va a Piazza Trilussa. No, ma non possono venire, verranno da Prati. No, Prati ci stanno ancora. Da Prati, non lo so da dove vengono, però ci metteranno un po'. Torniamo all'articolo, che è molto serio. Ma quella dell'esercito non sarà la sola mossa di contrasto a episodi di teppismo e di microcriminalità nelle aree del divertimento by night. Il Campidoglio è pronto a varare a Roma, come ha fatto in precedenza Gianni Alemanno, l'ordinanza che vieta la vendita di alcolici. E se questura e carabinieri promettono l'invio di pattuglie di supporto a quelle già presenti nelle notti romane, i vigili hanno pronto un piano per intensificare la lotta all'abusivismo commerciale e alla sosta selvaggia. Nel frattempo anche i municipi interessanti, che proprio ieri hanno incontrato le associazioni residenti, dovranno presentare dei piani dettagliati per combattere il fenomeno della movida violenta. Te lo immagini? I municipi interessati, dei piani dettagliati per combattere la movida violenta. Allora, noi stiamo in qualche maniera scherzando su una cosa seria. E che è prologo di cose ancora più serie, perché adesso diciamo lo prendiamo un po' così, col grottesco della situazione. No, ma non c'è da prenderla col grottesco, perché c'è una situazione in cui come abbiamo fatto in altre occasioni. Adesso leggeremo anche qualche altra cronaca di altri giornali, perché insomma solo leggo non ci permette di essere con tutta la buona volontà. No, anche perché poi fosse solo leggo, tu dici vabbè, il giornalaccio, il Free Press, invece è una campagna che si porta avanti su Trastevere e su tante altre zone e tante altre questioni, anche da parte, anzi soprattutto da parte dei giornali principali, quelli seri. Repubblica su questi temi, ma lo diciamo da tempo, sta avanzando insomma campagne molto pesanti e molto becere, che insomma fanno un po' impressione. Sì, Repubblica sì, non sanno che scrivere sostanzialmente, secondo me. La caduta di Berlusconi li ha messi a... Ma no, ma sulla cronaca locale sono sempre stati un po' debolucci a Repubblica. C'è quel tale, il direttore, adesso non mi ricordo chi è, che è, insomma sta lì da 20 anni, ma insomma è uno dei peggiori, dal mio punto di vista, ci mancherebbe altro, peggiori direttori di quotidiani locali, in questo caso inserti di Repubblica, della storia per certi versi. Che cosa dice il Corriere della Sera su questo arrivo delle... Allora, il Corriere della Sera è l'unico che oggi prosegue, perché almeno gli altri quotidiani che abbiamo sotto mano non si occupano della vicenda. Comunque, si parla di questa assemblea, a dire il vero, non particolarmente frequentata, almeno a giudicare dalle foto, che si è avuto con il presidente del municipio Sabino Alfonsi. E quindi c'è stata una task force sabato notte guidata da lei e dal comandante dei vigili urbani, e quindi le solite cose, paura di tornare a casa, eccetera eccetera eccetera eccetera. E ci sarà un consiglio straordinario con sindaco, prefetto e questore, quindi sono tutte le principali istituzioni addette all'ordine pubblico. E poi c'è anche qualche parola di Antonello Venditti, che abita proprio a Trastevere, il quale però, va detto, si limita a dire che bisognerebbe semplicemente mettere più lampioni. Cioè, cominciamo da mettere più lampioni, poi il resto non esageriamo, chi lo sa. No, ma indubbiamente qui siamo di fronte a un classico modello di comunicazione, questo è importante dirlo, nel senso che... sulla base di una situazione, è primavera, no? Chiunque abbia deciso nel fine settimana scorso di farsi una passeggiata nelle zone tradizionalmente frequentate dai giovani e meno giovani, per farsi una passeggiata nelle prime notti tiepide, da Campo dei Fiori a Trastevere, insomma in tutte le zone, ma anche in periferia per certi versi, intorno a una gelateria piuttosto che intorno a delle zone di... con un minimo elemento d'attrazione, avranno notato che tante persone si riversano in strada e hanno voglia di vedere, di fare, di stare all'aperto, che insomma voglio dire anche legittimo per certi versi. Dentro questo fenomeno è vero che ci sono alcune zone che sono in qualche maniera diventate dei veri e propri laboratori di una modalità di costruire il divertimentificio. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda il Pigneto, quello che ha fatto il decreto Bersani sulle liberalizzazioni delle licenze, cioè come ha trasformato, complice anche una tolleranza assolutamente che non è nel decreto Bersani, no, da parte da parte di chi dovrebbe effettuare i controlli normali, perché liberalizzare le licenze significa che tu puoi aprire nel momento in cui sei in regola con tutto il resto della normativa. Non è che siccome ho liberato la licenza tu puoi aprire e poi non c'hai la metratura, i servizi, avere degli schiavi, insomma, voglio dire, cose di questo tipo, o fare o compiere delle legalità sistematiche. Adesso non saremo noi a innalzare il cartello della legalità, però viene da sé. È complice questa situazione in alcune zone in particolar modo, è complice anche una sorta di, diciamola così, l'abbiamo già parlato, di senso un po' di disperazione di queste adunanze, nel senso di questa freneticità nell'adunarsi e di una necessità di avvicinarsi a questi nuovi poli di un consumo vistoso per certi versi, e anche a cattive abitudini, insomma, sul consumo di alcolici di bassa qualità, a basso costo, i famosi sciottini, insomma. Insomma, complice tutto questo e complice una situazione di mancata presa anche di responsabilità da parte un po' di tutti gli attori istituzionali, ma anche di una difficoltà di entrare in relazione da parte anche di soggetti, diciamo, più associativi naturali dei territori storici e meno storici, si creano delle situazioni pesanti. Poi c'è la questione della cosiddetta criminalità, cioè ci sono tutti questi fattori. Adesso c'è l'esercito, cioè l'esercito che a questo punto interviene e obiettivamente si tratta di una boutade inutile, assolutamente controproducente. Forse l'obiettivo è di nuovo mostrare in qualche maniera, voler provare a replicare quella cosa a cui accennava appunto l'articolo anche di Leggo, quelle ordinanze, quelle antivetro, anticonsumo, sulle chiusure, con una logica che credo non avrà un grande successo. No, perché poi ci sono tutta una serie di misure normali che appunto se non vengono fatte rispettare è poco da fare, appunto. Cioè, se tu fai sì che puoi aprire un bugigattolo vendendo quello che ti pare con uno che prende 2 euro l'ora nella più piena tranquillità, poi sai, fai l'ordinanza municipale. No, indubbiamente poi appunto è questo un po' il nodo da un punto di vista commerciale. L'altro nodo, l'altra questione che andrebbe messa un po' a sistema è anche la scarsa capacità di costruire le condizioni per cui questi conflitti si aprono. Cioè, quella cosa importante, non è che queste sono situazioni di conflitto, siamo in ritardo. No. Quello c'è allora legale? Sì, no, siamo allora giusti, scusate, siamo giusti, siamo prima che mettiamo a posto. No, la scarsa quantità di conflitti che si aprono dentro queste situazioni, non i conflitti che si aprono, l'apparente conflitto fra residenti, utenti, commercianti migliori, commercianti peggiori, non è una rappresentazione di un conflitto di una qualche sostanza. Qui siamo all'apparenza della rappresentazione, perché per le ragioni che abbiamo esposto più volte, i proprietari residenti alla fine beneficiano di un aumento delle, come dire, dei valori. A volte sì, a volte no, ma insomma sostanzialmente sono processi più complessi. Molti di quelli che si lamentano poi scopri che sono proprietari di locali o delle mura dei locali. Gli stessi che magari un giorno ci hanno bruciato il motorino e il giorno dopo stanno stravaccati a vomitare sulle scale in un angolo. Cioè, stiamo parlando di una situazione in cui conflitti veri sul modo con cui funzionano queste macchine non ci sono. Le questioni fondamentali non vengono affrontate. Ma infatti ce ne siamo accorti quando abbiamo provato ad andare un po' più in profondità in territori che magari conosciamo meglio, e quando cerchi appunto l'interlocuzione con tutti questi soggetti, comitati, singoli, eccetera eccetera, passato il livello, diciamo, dell'indignazione o dell'incazzatura eccetera eccetera, è difficile entrare anche in comunicazione, perché ci sono tutta una serie di nodi che rimangono sullo sfondo volutamente lasciati all'incancrenirsi. Poi esce fuori l'esercito, escono fuori queste proposte così un po' buttate lì. Io credo che alla fine questa cosa dell'esercito funzionerà sostanzialmente nella solita maniera. Per liberare qualche pattuglia di presidio di carabinieri e polizia, li metteranno in qualche angoletto a controllare gli obiettivi sensibili, anche se in effetti le funzioni di polizia giudiziaria gliel'hanno date, vi ricordate in passato, e anche il tentativo di applicarle. Io mi ricordo a Nagnina, per un qualche giorno i militari schierati lì tentarono di darsi all'inseguimento dei portoghesi e dei venditori ambulanti. Poi qualcuno, giustamente, dopo averli visti in azione, si disse in pubblico, gli sembrava abbastanza ridicolo che un Rambo addestrato per combattere con Al-Qaeda finisse a inseguire un venditore di collanine, e si capì che forse era veramente troppo. In questo caso si tratta di masse di giovani. Vediamo che succede, perché qui può diventare anche una situazione pericolosa. Ripetiamo sempre, stiamo parlando di militari armati con armi da guerra, non abituati alla tolleranza, abituati insomma a sentirsi poi un po' in una situazione in cui appunto se stai in una caverna di Kandahar ti comporti in un certo modo. Esattamente, per cui la situazione è preoccupante, per cui l'appuntamento è a quando arrivano i primi militari. Io direi di fargli un comitato d'accoglienza con tutte bandiere tricolori, fanfare, fiori, mortaretti, fiori e cose del genere, perché insomma, bisogna che questi si sentano a casa, anche perché se non si sentono a casa a Trastevere, immaginano di stare in una, insomma, voglio dire, in un avamposto in Afghanistan, chissà che idee si mettono in testa, ecco, insomma, magari poi vengono pure dalla provincia, senza nulla da togliere ai provinciali, ma insomma, purtroppo magari non si rendono conto. Vedono 200-300 giovani, li scambiano per facinorosi armati con le cinture esplosive, insomma, può diventare molto pericoloso. Quello che diventa veramente pericoloso in tutto questo è quello che succede alla politica, come si miserisce la politica anche locale, da questo punto di vista ci dobbiamo rassegnare anche a questo personale politico dei cosiddetti mini municipi anche di basso livello, perché quando vengono al pettine i nodi delle questioni che non affrontano e non sanno affrontare, sanno soltanto fare il coro all'emergenza. E peraltro poi nel caso specifico di Trastevere potrebbe non essere una boutade, perché a Trastevere, essendo un quartiere centrale, obiettivi sensibili ci sono. E quindi, diciamo, in questo caso non è inimmaginabile pensare che in effetti venga dislocata qualche lince dell'esercito in bella mostra vicino a qualche ambasciato o qualche residenza, per cui insomma non è che stiamo parlando di qualcosa di irrealistico. Magari la aprono per farla vedere ai giovani, per invitarli a arruolarsi, che ne sai, non si sa mai, l'hanno già fatto, insomma, lo fanno normalmente, sì, durante le feste delle forze armate, non con particolare No. Guarda, quando vai tu ti fanno montare sull'elicottero, sul carro armato, ti fanno nuovi comandi. No, gli piace un sacco a loro. Gli piace che tutti si sentono soldati, i più piccoli, per esempio, si mettono i comandi del carro armato. Dice, cioè, questo è il cannone che può polverizzare i bambini afghani a ben 3 chilometri di distanza. Figo, che guarda, figo, è un come pulsante. Un videogioco. Ecco, esatto, bello. Ci prendiamo un attimo di pausa, se abbiamo l'altro pezzo, quello su... Noi Guerrieri della Notte, quell'altro, quello più in, diciamo più in tema almeno locale, oppure quello, insomma, quello che vogliamo, e vediamo di entrare in contatto con chi, con qualcuno che a Trastevere ci vive. Non ce l'abbiamo, però abbiamo qualcosa in tono. Con ganas de correr. da quando triste verenda quando do lassato c'avevo un petto il cuore c'avevo un petto il cuore l'ho perduto dimmelo un po' si tu la ritrovai triste verenda quando triste verenda quando è tolla sai già se la vuoi girare già se la vuoi cantare già se la vuoi girare già se la vuoi cantare tu c'è la primavera, tu c'è la primavera nella chioma, il vento passa dentro, il vento passa dentro e sempre fuma, tu c'è la primavera. Il vento passa dentro e sempre fuma. Gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare. Gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare. Gira se la vuoi girare, canta se la vuoi cantare. Gira se la vuoi girare. Allora, le 12.06, minuti primi, questo era un mix di stornelli per la voce di Gabriella Ferri, fra l'altro abbiamo scoperto che a Trastevere è dedicato anche un film misconosciuto, io non sapevo l'esistenza, nel lontano 1971 con Nino Manfredi, Vittorio De Sica, insomma diversi altri personaggi, questo così per la pura cronaca. Per quanto riguarda ancora diciamo quello che si dice sui temi che abbiamo affrontato finora, anche una visione più vasta dell'informazione dei media in realtà non offre particolari novità, sia i giornali diciamo più popolari direbbe qualcuno, sia quelli più autorevoli sono sostanzialmente sulla stessa lunghezza d'onda. C'è un lungo articolo che appare sul sito del Corriere della Sera in cui sostanzialmente diciamo a integrazione di quello che abbiamo letto finora nella versione cartacea c'è un lungo elenco fotografico della notte trasteverina e poi evidentemente un reporter è andato a far compagnia alla presidentessa del primo municipio nel suo giro notturno insieme al comandante della municipale. Insomma, il tema è sempre un po' quello, masse di giovani più o meno ubriachi che si aggirano, c'è anche qui lo spauracchio, credo che tu abbia sbagliato telefono e quindi andiamo, scusate, ci prendiamo un altro attimo di pausa musicale e torniamo fra poco in diretta. Thank you. triste verenda cuando doy asado. Ya avevo un petto e il cuore, ya avevo un petto e il cuore, no, perduto. E allora, eccoci qua fra una difficoltà e l'altra. Sì, un po' di problemi tecnici, siamo di nuovo, cioè di nuovo, siamo in sempre collegamento in con Valerio del Cinema America, non sbaglio, vero? Sì, no, no, giustissimo, ciao. Ciao, allora, intanto noi abbiamo chiacchierato, te lo raccontavamo poco fa, fino adesso sì, un po' della cronaca dei giornali su questa ennesima emergenza a Trastevere, questa... addirittura questa butade rilanciata soprattutto da un Free Press, da Leggo, dei militari schierati a Trastevere contro la movida violenta, e siccome in qualche maniera tu, voi siete proprio dentro Trastevere anche come realtà, come occupazione, ma anche come vita credo quotidiana, ci interessava capire un po' meglio, anche perché questa non è una storia nuova, quella di Trastevere e quella del... della movida violenta non è nuova neanche in città in generale, nel senso che si ripete spesso anche in altre zone, però ci sembrava interessante anche provare a raccogliere il vostro punto di vista, o comunque il punto di vista che un osservatore può avere di questo tipo di situazione. No, io sarò sincero, noi ne stiamo discutendo proprio in questi giorni in collettivo, perché la situazione non è semplice, comunque essendo appunto a livello di collettivo totalmente contrario alla militarizzazione dei territori, ci troviamo comunque di fronte a un aggregato molto grande di residenti, cioè più di la maggioranza, che appunto spaventata da alcuni episodi, spaventata da comunque le invenzioni mediatiche, perché questa cosa del cassotto per strada si sarà successo, ma comunque è stata montata ai massimi storici. Sì, è proprio una buttata d'arte per creare un caso. Sì, sì, è un caso che si crea, si spaventano comunque tutti i residenti, con i quali poi diventa difficile anche andare a spiegare che appunto la militarizzazione non è una soluzione. Cioè, quello che abbiamo tentato in questi giorni di fare, su almeno sulla via, è quello di dire appunto: ok, sì, a Trastevere c'è casino la sera, c'è un problema piuttosto ampio, però la soluzione non è mettere la camionetta dell'esercito all'angolo della strada, perché a parte che si è già fatto a Campo dei Fiori, e anche se uno volesse dire che a Campo dei Fiori poi questa roba è smessa, comunque si è trasferita allora a quel punto a Trastevere, quindi si è un gioco dei quattro cantoni, prima o poi si arriva a Testaccio e poi si ritorna a Campo dei Fiori. Più o meno, sì, sì, sì. Quindi la stiamo ponendo sia su questo, ma anche sul piano del... ok, c'è un problema, sono stati bruciati dei motorini in piazza di Renzi, tutti i residenti che abbiamo lì sono spaventati, però comunque non è il fatto di mettere la polizia in fronte con i ragazzi di 15 anni, la soluzione è dare delle iniziative, a dare dei concerti gratuiti, è cercare in qualche modo di far vivere le piazze di Trastevere, che ce ne sono tante e sono totalmente la pacificazione. Comunque istituzioni vogliono farsi garanti di una sicurezza nelle strade, forse dovrebbero domandarsi sul perché succede in tutti i territori in cui l'unica cosa presente sono i locali, sono delle associazioni culturali che fondamentalmente diventano poi anche loro dei locali, anziché fare iniziative. Dovrebbero in qualche modo, appunto, come ho detto prima, organizzare non l'estate romana sul Lungotevere, perché comunque anche lì ricadiamo nello stesso concetto, ma delle alternative serali, quella che un po' è quello che poi tentiamo di fare noi al Cinema America. E la cosa assurda è vedere comunque l'istituzione principale che in contatto con i residenti e ti militarizzi come a Campo dei Fiori. Quando senti, ascolta, che quella non mi, è senti? Stata una mi senti? Sì. C'è una leggera difficoltà d'ascolto. Adesso non so se sei in una zona in cui il telefono non prende perfettamente. No, prende bene. No, si sente, si capiva perfettamente, sì. Però ogni tanto c'è qualche scattino, come se ci fosse... Okay. Se c'è la possibilità di spostarti in un punto sì, un io più... Mi sposto, non dimmi tutto. Allora no, sì, questo è un aspetto e l'abbiamo anche sottolineato, no? L'Alfonsi da questo punto di vista, invece di far buttarsi la cenere sul capo dei motorini bruciati, nel senso, ma per l'incapacità anche di affrontare nel tempo le situazioni, ma sì, che c'era noi comunque ieri, per, lo diciamo chiaramente, per capire, siamo andati anche alla riunione che aveva organizzato con i residenti, totalmente a sé la cultura, forse è l'unico che forse domande sull'offerta culturale che c'è a Trastevere in generale, un municipio comunque invece no, veniva veramente risolto col delegato alla sicurezza, che poi per i poteri che ha nel municipio, che sono i miei, era del tutto irrisca. No, perché secondo me la logica è che va bene. No, ma che la logica va bene, nel senso che poi sostanzialmente la logica che c'è dietro a questi interventi, che va bene tutto, solo che ci sono questi piccoli dettagli che questi barbarelli, così chiamiamoli, così, questi piccoli barbari, non si accontentano di starsene buoni e tranquilli e imbottirsi di alcol, ma poi succede pure che magari qualcuno perde le staffe o comunque ne nascono dei problemi. Perché io ho la sensazione che ci sia proprio una difficoltà a interpretare, e questa è la domanda che volevo farti, ma insomma poi decidi tu come prenderla, a interpretare sì è vero il bisogno di cultura, sì è vero il bisogno anche di una socialità diversa, però io ho anche l'impressione che questi poli di tra virgolette di movida siano degli attrattori anche per un pezzo di disperazione sociale. Non è tutta disperazione sociale, anzi forse a Trastevere, adesso io la composizione non la conosco bene, c'è anche molta, molto radical chic fra virgolette che si dà convegno, però intorno ai consumi vistosi anche di molti che si ritrovano in questi pezzi di Roma, poi vengono attratte anche molte parti, in special modo giovani, che sono fra virgolette fornitori di servizi. Mo, fornitori di servizi sappiamo di che si tratta, insomma, di sostanze stupefacenti piuttosto che più in generale, però insomma è anche un pezzo di disperazione rispetto anche alle prospettive culturali, di lavoro, di possibilità di immaginarsi anche una forma di socialità diversa. Questo noi l'abbiamo visto anche un po' a San Lorenzo, anche abbastanza in maniera chiara, no? Nel senso che il modo di stare nei luoghi pubblici, in quei luoghi comuni in qualche maniera, è diventato oggi una difficoltà, e da questo punto di vista la richiesta di regolazione che viene dagli abitanti non è che poi non sia sostanzialmente, non dico condivisa, ma assunta anche dagli utenti, solo che io faccio come pare perché me va, non è che c'è la capacità di una contestazione di un modo e quindi in qualche maniera di costruire un'alternativa. Questa è una domanda un po' complicata, ma insomma decidi tu a quale parte rispondere, insomma. Io non... sì, è complicata. Quello che a titolo personale io vedo è che cioè nel senso ci sia un costante bisogno di affermarsi con gli altri, che prima si vedeva più nei ragazzi che stavano nelle scuole, magari dell'area destrorsa eccetera, mentre si sta diffondendo su proprio tutte le positive, anche che non si schierano politicamente ma che poi tentano di affermarsi sugli altri con metodi del tutto squadristi e fascisti, perché se poi uno va a rivedere qual è l'atteggiamento è quello. La motivazione però non lo so, cioè non si so dire che da cosa possiamo partire. L'unica cosa che penso è che metterli a confronto con le forze dell'ordine li possa semplicemente far non lo so, incattivire ancora di più o comunque aumentare semplicemente la tensione. Oppure più banalmente, come dire, sviluppare quella capacità che è caratteristica di molti soggetti sociali, di accanirsi sempre di più sui più deboli, accanirsi il meno possibile quando ti trovi qualcuno magari un po' più forte di te, che non sarebbe comunque una bella fine, ecco, diciamo, con no, vabbè, quello è chiaro, cioè, nel senso, poi lo scopo è quello di tutta questa faccenda, comunque non è che vanno, cioè non è che la violenza si scatena contro il più forte, si scatena contro il più debole. Non t'ho capito, io sono perso. Nel frattempo no, è chiarissimo. Segnarmelo, quindi mi sono impicciato. No, ma è chiaro, quello che dicevi era chiarissimo, siamo anche abbastanza d'accordo. Senti, allora, l'altra domanda, senza che ti faccio perdere così tanto tempo, comunque insomma anche noi il nostro tempo è tutto sommato limitato, c'è stato questo incontro, c'è questa incalzare, sembra, di eventi, addirittura i primi militari starebbero in viaggio, noi li abbiamo un po' sfottuti perché loro quando si mettono in moto ci mettono parecchio, no? Che sai, scendi dalle caserme, prepari ai Puma. Proponeva di mettere venerdì la municipale, sabato i carabinieri, domenica la polizia, cioè che e l'esercito? Le forze dell'ordine. Beh, io ieri non ho sentito l'esercito, cioè dalle parole della presidentessa non è uscito l'esercito. Però io pure ho letto su Leggo che qui si sta... No, vabbè, chiaramente la nostra era solo una battuta, ma per certi versi è un po' un esito mentale, no? Cioè un po' l'esito di una estraneità, di costruire un nemico pubblico, no? Perché l'esercito, anche la divisa, ma insomma, però l'esercito proprio significa immaginare che tu hai di fronte un altro, devi mostrificare la persona che hai di fronte per schierarci l'esercito, almeno come dibattito pubblico. Poi non sappiamo se le divise arriveranno veramente. No, la domanda più semplice era: che cosa ti immagini che si possa, o qualcuno pensa, immagina che si possa dire in pubblico su questo qualcosa? A livello di spazio, a livello di componenti sociali che comunque a Trastevere ci sono, a livello anche di gruppi, cioè, anche di gruppi spontanei. È molto semplice, ce l'ho detto prima, la soluzione non è assolutamente... No, io dicevo in termini di proposte, cioè se c'è qualche cosa da rilanciare anche come informazioni, no, sul ragionamento generale, cioè, non c'è niente in programma, era proprio una domanda semplice. No, il programma no, noi ci stiamo proprio confrontando, perché cioè, è difficile dire a delle persone a cui gli hanno bruciato i motorini sotto casa e che gli ha preso fuoco l'appartamento: guarda, la risposta non è mettere la camionetta. Lui ti risponde chiaramente: sì, però a me mi hanno bruciato il motorino, io voglio tornare a casa sereno. Poi c'è la signora anziana che ti dice che ha trovato delle persone che si accoppiavano sulle scale di casa sua. Questa l'ho già sentita, attenzione, attenzione, questa non è nuova, non è nuova. Fanno l'amore nei portoni. Sì, questa è successa anche a San Lorenzo. A me non è che era la parte che mi ha scandalizzato meno. Lo so, per la povera signora anziana, capisco che deve essere terribile. Sì, ho capito, però pure la signora anziana di Trastevere, o Trastevere è completamente cambiata, o... Se è una vecchia residente, altro che amore nei portoni si faceva a Trastevere. No, quello che ci siamo detti è che sicuramente bisogna trovare una mediazione tra chi appunto vuole la militarizzazione e chi invece si rende conto che non è assolutamente una soluzione, cioè ci deve essere una via di mezzo nell'emergenzialità. Bisogna comunque capire perché, cioè nel senso, perché questi qui arrivano a chiedere la militarizzazione, c'è un discorso di base sotto, c'è un qualche altro giro di dietro, non lo so, cioè, non siamo ancora nel pallone. Il punto principale è che sembra una manovra calata dall'alto, che vuole portare proprio l'esercito a Trastevere per controllare una delle poche zone che forse ancora in qualche sua parte resiste alla mercificazione, alle catene di locali o quant'altro. Va benissimo, Valerio, noi ti ringraziamo. Naturalmente, se nel corso d'opera delle riflessioni che farete ci sarà la possibilità di rilanciare anche degli appuntamenti, il numero della radio lo conosci, insomma c'è sempre la disponibilità anche a, come dire, promuovere quelle che possono essere iniziative anche locali, anche parziali, anche piccole, che però magari stimolano la curiosità delle persone e magari altre persone vengono a vedere, a capire, a cercare anche di trovare un modo diverso di guardare le cose. Ti ringraziamo tanto e ti salutiamo. Un abbraccio. Ciao. E con questo intervento credo che sulla parte, diciamo, di Trastevere noi concludiamo. Sono le 12:22:32, non ci resta che salutare. Non piangere, perché no, in questo caso non piangere, non ci resta che attrezzarci, ecco, se dovessimo concludere a anche una riflessione sulle parole un po' smarrite di Valerio, che appunto hanno questa realtà, il Cinema America a Trastevere, è una realtà occupata anche da giovani che cercano di fare un discorso sul territorio anche complicato, perché appunto la realtà di Trastevere è complicata, un po' smarrito di fronte alla necessità di intersecarsi, sì, anche la necessità magari di dover maturare molto velocemente, no, anche una presa di posizione su fenomeni che forse camminano un po' più alti sulla testa delle persone. Però siccome sappiamo che invece questo tipo di meccanismo si è attivato e si attiverà un po' in tutte le zone investite da questi processi, bisognerà attrezzarsi e attrezzarsi con una che risposta. Sono parecchie, perché c'è Trastevere, San Lorenzo, Pigneto, Testaccio, Ostiense, oramai Ponte Milvio, sì. Insomma, non è che stiamo parlando di, sono porzioni piccole ma non infinitesimali, tutte della, diverse della città. Tutte con caratteristiche diverse, tutte anche con per certi versi problemi diversi, ma tutte accomunate da un filo che lega tutto questo. Spereremmo che anche la politica, non quella dell'Alfonsi purtroppo, insomma, batta un colpo, un colpo ragionato rispetto a tutto questo. Aspettiamo, fiduciosi, un poco fiduciosi, ma insomma con la fiducia dell'ottimismo, sì, con l'ottimismo della volontà e col pessimismo della ragione, perché sostanzialmente ci sembra che il livello del problema non sia neanche sfiorato. Credo che appunto la questione fondamentale sia proprio nel senso di come si può vivere gli spazi comuni di questa città. Mi sembra che anche le riflessioni di un'esperienza come il Cinema America, ma che è piccola, ma dei suoi cugini più grandi, so, il Valle piuttosto che il defunto Angelo Mai, non abbiano aperto agli spazi comuni della città, ma abbiano sostanzialmente, si siano sostanzialmente isolati in delle, tra virgolette, isole felici, però incapaci di intercettare. Cioè, se voi pensate al Valle, no? Un'esperienza bellissima, poi qui in radio noi ospitiamo addirittura una trasmissione, noi così liberali, ospitiamo addirittura una trasmissione. Ospitiamo, fa parte, fanno parte. No, ospitiamo il Teatro Valle Occupato che fa una trasmissione, diciamola tutta come stanno le cose. E... però se tu ti guardi intorno, dici, attraversi la strada, perché il Valle sta dall'altra parte Corso Vittorio verso il Senato, nelle stesse bellissime serate in cui si discute di cose molto interessanti, anche molto d'avanguardia, in un certo senso molto raffinate, attraversi la strada Corso Vittorio, vai a Campo dei Fiori e ti metti le mani nei capelli, perché la cosa più figa che hanno inventato ultimamente è un modello di gelato cremolato in cui ci sono file di adolescenti di un chilometro che stanno lì a mangiare un gelato cattivissimo peraltro, o cosa peggiore, insomma, adunarsi in un appunto in questo meccanismo di questo consumo assolutamente depauperato di contenuti. E su questo forse la responsabilità è anche del rinchiudersi in certi spazi, di non saper portare il proprio messaggio al di là che sui giornali, tra i politici, in televisione, tra gli intellettuali, perché lì il messaggio passa, è ampiamente diffuso. È una questione questa, diciamo, no, basta, è ampiamente diffuso. Però quello che non passa è tra le migliaia e migliaia di giovani che invece affollano proprio l'altro lato della strada e che ti guardano anche con una sorta di sufficienza e anche di nemicità per certi versi, perché comunque l'impressione è quella. Ma qui ci fermiamo perché forse siamo andati anche troppo in là. Diciamo, le questioni sono... sono questioni normali, però sì, non sono questioni complicate. Va bene. Grazie, arrivederci. Va bene. C'è una telefonata? Non credo che vediamo sia se è a chi noi si riferisce. Sì. Madonna mia dell'Angeli, in quella chiesa avanti Piazza Termini, ma avete visto Allegro una mattina, io me sposai con Nina. Era d'ottobre e dentro al cuore mio c'era una febbre, e baci ardenti a te, felicità, felicità. Ma su tramezzo all'angeli, che farzano sul cielo, a voi o Maria, quell'angelo de mamma mia. mia. Para un corredino.